Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, inizia una puntata estiva del riposo del guerriero, il rotocalco di Radio 24, e dedicheremo ogni puntata a un colore dell'estate. Oggi cominciamo con il verde, però cerchiamo di non pensare alle tasche di quel colore, ma piuttosto associamo il verde alla speranza, all'ecologia, a vivere futuro, un vivere futuro e alle belle cose che ci aspettano. In questa puntata avremo anche la nostra glottologa, Francesca Dragotto, poi consigli per la lettura di Alessandra Tedesco, e giocheremo e videogiocheremo con Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi, andremo al cinema con Marta Cagnola, poi uniremo cinema e gusto grazie al nostro cinegustologo Marco Lombardi, per chiudere poi con i suggerimenti enogastronomici che ci arrivano diretti dal nostro gastronauta. Per iniziare, pensando al verde, ho anche associato questo colore a una leggerissima canzone di Paolo Conte. La morbidezza leggera di Paolo Conte alle prese con una verde milonga. E parliamo di verde parlando del futuro delle città. Paolo Adezza, buona domenica. Grazie anche a voi, buongiorno. Paolo Adezza, giornalista, ha scritto fra l'altro un articolo per Casa 24 Plus in cui hai descritto le città del futuro. Faccio degli esempi: Stoccolma, Copenaghen e molte altre, perché ci sono già città che per noi sono proprio il futuro, lì invece è il presente. Cosa sta succedendo in questi posti, Paola? Abbiamo scelto 10 città che potrebbero essere proprio le capitali del futuro per la capacità di rinnovarsi, di riqualificare aree molto estese, e lì, come appunto dicevi tu, il futuro è il presente. Per noi sono format quasi utopistici, per noi italiani, perché viviamo in città in cui i cambiamenti sono sempre molto lenti. Invece in queste città che abbiamo descritto, dall'Asia agli Stati Uniti, passando per il Nord Europa, i cambiamenti sono molto veloci e soprattutto sono tutti in chiave ecosostenibile, che è, diciamo, il tema del momento. Ecco, ci fai qualche esempio, nel senso, cosa hai trovato di curioso, di particolare, qualcosa che vorresti vedere anche tu nella tua città? Ma ci sono interi quartieri, per esempio se prendiamo il Nord Europa, sia a Stoccolma che a Copenaghen, che vengono riqualificati, magari quartieri ex industriali abbandonati, in chiave appunto ecosostenibile, quindi nell'arco di lungo periodo, perché solitamente sono progetti che vanno dai 10 fino addirittura ai 40 anni, si stravolge l'aspetto di un quartiere intero della città, costruendo in chiave appunto ecosostenibile, con attenzione al verde, con un impatto per l'ambiente che è quasi nullo. Per esempio, in un quartiere di Stoccolma, questo quartiere Hammarby, addirittura l'80% dei rifiuti viene riciclato, e quindi significa un'attenzione particolare all'impatto che un quartiere così grande può avere su una città. Ecco, Paolo Adezza, io non so se ti è capitato di parlare anche con gli abitanti, con i cittadini, perché poi io volevo capire, i cittadini come vivono questi cambiamenti? Ma diciamo che i cittadini si trovano ad avere la possibilità di usufruire di un quartiere nato ex novo, sì. Quindi alla fine è una scelta loro quella di andare a vivere in questi quartieri, che spesso hanno anche dei costi al metro quadro inferiori a quelli che sono i costi di abitazioni magari in centro città, con la possibilità di avere trasporti rapidi verso il centro, oppure di muoversi, perché le piste ciclabili sono tantissime. A Copenaghen il 36% delle persone vanno a lavoro in bicicletta, e quindi la possibilità di gestire la qualità della propria vita in maniera diversa. Per esempio, faccio l'esempio di Milano, dove qualche caso c'è, per esempio Porta Nuova piuttosto che City Life. All'inizio gli abitanti del quartiere hanno combattuto molto contro queste nuove realizzazioni. Adesso invece, passando per Porta Nuova, si vede veramente un progetto innovativo, moderno, che alla fine agli abitanti piace. Ecco, Paola, in generale, rispetto alle città che hai visitato, delle quali hai scritto, Secondo te, comunque tantissime sono città del nord Europa, ecco, e quindi la mentalità in questo senso fa cambiare le cose, anche l'atteggiamento verso il rinnovo della città, secondo te? Sì, sicuramente sì, diciamo che il modo di vivere nel nord Europa è molto diverso dal nostro, sono molto più attenti alla qualità della vita, molto attenti anche ad accettare cambiamenti se questi sono in positivo. Da noi a volte solo per un parcheggio sotterraneo in una zona si fanno delle manifestazioni che durano tantissimo perché gli abitanti rifiutano proprio il cambiamento, non pensando che il disagio di oggi è il benessere del futuro magari. E poi così è, insomma noi siamo sempre un po' conservatori, no? Come sì. Mentalità. In questo senso, se adesso io ti dessi una sfera di cristallo e in base a quello che hai scoperto scrivendo l'articolo, informandoti e guardando, cosa vedi nella nostra Italia nel futuro prossimo fra le tante cose che hai visto? Qual è quella che arriverà da noi più facilmente secondo te? Ma l'attenzione all'ecosostenibilità nelle costruzioni, perché questo già oggi si vede molto, sia per quanto riguarda le costruzioni di uffici o comunque di centri commerciali, quanto nell'abitativo. L'attenzione proprio al fatto che le nuove costruzioni, ma anche la riqualificazione del patrimonio esistente, siano attenti all'ambiente, abbiano un impatto basso, si pensa a tutto quello che si sta facendo proprio per quanto riguarda il consumo di elettricità piuttosto che di riscaldamento. Quindi questo secondo me forse è il primo aspetto che in Italia potrebbe cambiare quello che è il nostro parco abitativo e lo stock degli immobili sostanzialmente. Ecco, arriva anche un po' con la crisi, no? Perché ovviamente con meno possibilità alla fine uno sta anche molto più attento per cercare di abbassare i costi delle bollette, quindi ovviamente diventa più attento proprio al consumo, quindi si informa di più, cerca di usare le lampadine più economiche, usare il riscaldamento se prima era 22 gradi magari lo porta a 19 e quindi questo le due cose si compensano, non so, una aiuta l'altra ovviamente, quindi non è la giustificazione, non dovrebbe essere questo a muoverci, però insomma è una molla alla fine. Una molla sicuramente, infatti proprio da un'indagine fatta dalle tensioni alle spese per gli italiani in casa, proprio queste erano le voci più importanti. Paola, ti ringrazio molto e insomma speriamo che un po' di queste 10 città arrivi anche nelle nostre, ovviamente anche molto presto. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Il riposo del guerriero. Lorenzo Montari, non so se faccio bene a dividere fra italiani e altri in generale, noi abbiamo una mentalità un po' conservatrice su alcune cose, no? Secondo te la nostra attenzione al futuro più verde in generale è dettata proprio da un'attenzione o è la crisi che ci ha portato a quello, perché noi abbiamo bisogno di queste, diciamo, di queste sollecitazioni. Forze, sì, bravo, per allora, così te lo chiedo, non so se sai rispondere. Diciamo così, che tutti i comportamenti, sì, sono l'esito di una serie di fattori che arrivano insieme, no? Cioè noi facciamo un errore se proviamo a spiegare il singolo comportamento sulla base di una ragione, no? Non c'è mai una ragione perché facciamo una cosa. Ce ne sono sempre tante. Allora, noi possiamo dire, rispetto alle cose che sentivamo prima sulla Danimarca, che è vero che ci sono paesi nei quali c'è una cultura ecologica che da tempo si è sedimentata, no? Si è costruita, si alimenta nelle cose. Mentre da noi questo tema è un tema relativamente nuovo, no? Il che non vuol dire che poi noi non siamo capaci nel momento in cui siamo messi nelle condizioni di capire la rilevanza di certe cose, cioè per esempio quando le raccolte di riciclo rifiuti sono ben organizzate, le persone sono disponibili a fare anche da noi un sacrificio in più perché poi l'operazione funzioni, cioè se capiscono il senso e sono messe nelle condizioni di farlo, come dire, gli italiani così come gli altri, no, lo fanno. Sì, esattamente, lo fanno. Il punto è che le cose devono essere ben organizzate e questo, come dire, non sempre avviene. E in secondo luogo deve essere ben costruita la consapevolezza del senso dell'operazione. Perché devo fare la fatica in più, no? Allora, quando questo avviene, noi siamo come gli altri, da questo punto di vista. Siamo, diciamo, conservatori nella misura in cui lo siamo tutti e aperti al nuovo nella misura in cui lo siamo tutti. Poi è chiaro che appunto abbiamo delle dimensioni di resistenza che possono derivare da sfiducia o da esperienze che abbiamo avuto non positive rispetto a certi tipi di operazioni. Quindi non fare una distinzione di italiani e gli altri, anche perché si potrebbero aprire distinzioni fra chi sono gli italiani, no? Ci sì, sono, no, esattamente, è una battuta in fondo, no, perché è chiaro che la risposta vero, non poteva cioè, arrivare. Però in questo è interessante, nel senso che noi abbiamo la tendenza a pensare per categorie, d'altro canto le categorie sono fondamentali, no? Non potremmo farne a meno. Il punto è che una volta che abbiamo pensato per categorie dovremmo fermarci a dire oppure come potrebbe essere, cioè come potremmo diversamente articolare le categorie, no? E in questo caso non è detto che la dimensione italiani verso altri, con la quale spesso ragioniamo, sia una dimensione che spiega tutto. È vero che ci sono alcune specificità di questo paese, prima nel servizio si diceva siamo più conservatori nelle nostre città, è anche vero, si potrebbe dire che le nostre città hanno molto più da conservare di quanto non abbiano altre città, no? Quindi c'è anche una ragione che spiega. Infatti è vero, cioè infatti si parla di quartieri completamente nuovi in città, certo, che possono permettersi quartieri completamente nuovi. Noi abbiamo delle città che sono talmente antiche che i quartieri nuovi sono molto lontani. E dove sarebbe forse un problema dire vabbè, ma esatto, qua radiamo solo al tutto perché facciamo un'altra cosa. Infatti è così. Non so appunto se ha già visto del futuro, immagino di sì, Marco Montemanno. Ciao Marco, ben ritrovato, buona domenica. Ciao a tutti. Allora, Marco Montemagno, grande esperto di nuove tecnologie e di rete internet, si è spostato dall'Italia all'Inghilterra, in questo momento è lì. È lì e ha visto un po' di cose. Intanto hai visto un po' di futuro rispetto all'Italia in generale per quanto riguarda appunto le nuove tecnologie, quello che arriverà anche da noi? Beh, tantissimo. Beh, la cosa più immediata è ovviamente la connessione. Tu con una connessione internet a banda larga personale vai probabilmente 20 volte più veloce che con una connessione aziendale in Italia, no? Però diciamo questi sono aspetti marginali. Una cosa secondo me interessante è che c'è questo spostamento che ho visto anche dato un bicchiere d'acqua a Marco Montemagno, per cortesia. Sì, più che altro un virus che spero di non trasmettervi catodicamente. Non siamo arrivati ancora a quello, grazie al cielo, sarebbe un problema passarlo per telefono. Vabbè. Ho visto alle web che questo evento sulla tecnologia molto grosso che c'era a Parigi a dicembre, uno spostamento proprio sugli oggetti, no? Noi parliamo sempre di internet, invece qualunque oggetto sta diventando intelligente, questa secondo me è la cosa più interessante. E quindi ad esempio proprio sulla salute, che potrebbe servirvi in questo momento, ve lo ricordate Spock, il tricorder si chiamava, Spock? Non me lo ricordo. In Star Trek, no? C'era questo oggetto che tu potevi mettere per capire se uno stava bene o male, e in 10 secondi ti diceva il battito cardiaco, la febbre, la malattia, no? Qualunque cosa. C'è. E è un oggetto che sta arrivando adesso sul mercato, ad esempio, no? Oppure abbiamo la FDA americana ha approvato questa pillola che trasmette, la ingerisci e trasmette in modo wireless quelle che sono diciamo la situazione del tuo corpo, e se ci sono, cioè, se c'è qualcosa che non va, avvisa il tuo medico. Quindi la cosa secondo me interessante, scusami, di passaggio adesso perdonami, vorrei capire, a questo punto sono curioso. Va bene, io ingerisco la pillola, dura soltanto il suo percorso, poi la pillola se ne va, devo ingerirne un'altra per la prossima, come funziona? Cioè, certo. Non è che rimane, ho in mente le cose sotto pelle, hai capito, che rimangono per sempre, no, un po' diverso, no, quando hai bisogno. In realtà, secondo me è interessante questo, no? Perché all'inizio queste prospettive sono sempre, ingerireste una pillola che poi non sai che effetti ha, però se hai un problema serio di salute probabilmente qualche cosa che vai a percorrere. C'è un investitore molto famoso, che si chiama Vinod Khosla, che ha profetizzato proprio poco tempo fa che nel giro di 5 anni l'80% delle analisi mediche saranno fatte da macchine e non da dottori, cosa che per gli amici dottori in ascolto non è una buona notizia, però se ci pensate effettivamente il livello di comprensione della tecnologia sta diventando così alto che è assolutamente percorribile. Ecco, vorrei chiedere, scusami Marco, a Lorenzo Montali, secondo te questa sostituzione o comunque questo avvicinamento tecnologia medico è il computer o la macchina che mi analizza piuttosto che il medico? Secondo te, dal punto di vista psicologico, visto che cambiano i presupposti, no? Che cosa può muovere? Allora, già adesso la tecnologia, come dire, rende visibile ciò che è per sua natura non visibile, sì. No? E lo rende visibile peraltro anche alle persone. Mi ricordo un'intervista che avevamo fatto una volta su questo tema, una donna che era incinta aveva detto: io sapevo di essere incinta, ma l'ho veramente capito soltanto quando ho visto l'esame che il mio medico mi ha fatto. Allora, la malattia è per definizione qualcosa che noi non possiamo, diciamo, nella gran parte dei casi vedere, di cui magari non ci rendiamo neanche conto, e alcune di queste tecnologie ce la rendono presente, no? In un modo in cui altrimenti non sarebbe. Il tema del medico appunto è un'altra cosa ancora, cioè l'idea che noi possiamo bypassare, sostituire un intervento umano di lettura di questo tipo di esami dentro, diciamo, nella diagnosi medica. Questo non lo so, cioè non so quanto sia davvero credibile fino in fondo che noi possiamo sostituire del tutto ancora adesso, o meglio adesso, quando noi facciamo degli esami tipo medico, poi il referto, cioè la lettura dell'esame, è una lettura non automatica, no? Ma che richiede quello che chiamiamo una competenza di tipo clinico, cioè tu puoi vedere la macchia, ma che cosa sia la macchia, come dire, e quali sospetti la macchia apra, non è una cosa che lasciamo decidere semplicemente alla macchina, ma le operazioni che poi facciamo sono operazioni per le quali passiamo attraverso un tramite di una persona che ci aiuta a comprenderle. Quindi psicologicamente comunque una di quelle cose che ancora ci avvicina alle persone. Certo, forza. Ma tanto più, anzi, le persone adesso ti dicono perché mi trovo a disagio con la medicina di adesso. Mi trovo a disagio perché la relazione con il medico non c'è esattamente, meno, esattamente. Quindi la vorrei recuperare. Di quella relazione abbiamo profondamente bisogno, nel senso che appunto abbiamo bisogno che ci sia un interlocutore che interpreta, no? Qualcuno che si mette in mezzo fra noi, sì, e il risultato. Ecco Marco, poi dicevi addirittura questa tecnologia di questi oggetti intelligenti arriverà anche negli oggetti della nostra quotidianità. Certo, sì, assolutamente. Beh, se restiamo sul tema, diciamo, della salute, del fitness, pensiamo a oggetti come Fitbit, Whitings, che sono oggetti che ti metti addosso e ti dicono quante calorie stai consumando, qual è il tuo livello di salute, no? Quindi dal punto di vista del monitoraggio del nostro corpo stiamo facendo davvero... Ma non ci sentiremo così troppo osservati, Lorenzo? Cosa pensi? Dipende molto da noi, in base all'utilizzo. Quasi, che ecco, aspetta, perché Lorenzo Montali sta facendo un così con la mano. Dico che sentire. Qui dobbiamo stare anche attenti, sì, a, come dire, un'operazione di commercializzazione dell'ansia, no? Cioè qui c'è una questione di bisogno di controllo che le persone avvertono. Paradossalmente, meglio stiamo e più a lungo viviamo, più sembra che abbiamo un bisogno di controllo sulla nostra salute, appunto al limite, nel senso di dire: ma oggi quante calorie avrò consumato? Quindi diventa patologico, dici, c'è questo, cioè, rischio, ma diciamo così, una compulsione che vengono messi a disposizione, sì, delle persone, e in questo modo le persone vengono sollecitate a pensare che siano utili, delle dimensioni che in teoria dovrebbero essere attivate solo quando tu hai un problema. No, la nostra normalità è normale, in questo senso non ha bisogno di essere controllata. Poi è chiaro che se tu metti a disposizione delle persone un apparato tecnologico o un apparato di strumenti, di prodotti, no, che illudono che il controllo risolverà il problema, allora magari poi succede anche che le persone li utilizzino. Però questo, siccome, non ha a che fare con una dimensione, come dire, di benessere, ma in qualche modo con l'alimentare un'ansia, no? Ed è interessante il fatto che appunto meglio stiamo più siamo ansiosi rispetto alla nostra salute, no? Il che è tutto paradossale. È vero, però il ragionamento si comprende molto bene. Marco Montemagno, a parte il fitness, queste cose, adesso sto pensando anche alla tecnologia NFC, no? Che insomma arriva a Milano, una delle prime città in Italia dove si può pagare col telefono, si potrà, insomma, tra pochissimo pagare col telefonino. Ma non solo, andremo a acquistare le cose, quindi sapremo, non so, quando scade automaticamente, oppure compriamo una pianta e ci dirà quando deve essere nutrita. Funziona così? Ma sì, premesso che non concordo con quello che diceva Lorenzo, nel senso, questo è solo il tema patologico poi dell'uso di queste tecnologie, sì, è sempre uno degli aspetti che c'è, ma in realtà sono usate per migliorare. È vero, ma lui dice questo crea un'ansia perché ti fa monitorare in continuazione. Sì, cioè, no? Nel momento in cui crei un mercato, no? E dici: nel tuo quotidiano quante calorie hai consumato? E nel tuo quotidiano quanti grassi hai ingerito? Ma come dire, invece l'alternativa, ovviamente, il che non vuol dire appunto rinunciare alla tecnologia nel costruire l'alternativa, però l'alternativa in teoria è costruisci una cultura nella quale le persone siano consapevoli di ciò che stanno facendo, senza avere come dire, il bisogno di controllo, no? Ma siano, abbiano nelle loro mani la progettazione di che cosa voglio fare, cosa voglio mangiare, quanto voglio camminare, quanto sport voglio fare. Allora forse questo non vuol dire non usare la tecnologia anche per fare queste cose, però vuol dire forse spostare la prospettiva dalla dimensione del controllo su ciò che ho già fatto alla dimensione della prevenzione su ciò che posso fare, no? E quindi certo, sulla progettazione. Dipende sempre dalle attività che devi fare, no? Alcune, il problema è che molti aspetti non li vedi. Se tu fai una corsa e bisogna sapere il tuo battito cardiaco, devi avere qualcosa che te lo misura, non per un fatto che sei un maniaco. No, è vero, si parlava si parlava della quotidianità, no? Quando certo. Hai a disposizione, insomma, questo è. Certo. Allora, comunque, dimmi. Sì, gli aspetti interessanti, che poi anche qualunque oggetto, visto questa società sì. Che si chiama Cubaci, che sì. Fa un sensore che in pratica viene messo nelle piante, e quando la pianta ha bisogno di acqua ti avvisa. E questo tipo di trend è molto forte, no? Sul fatto di spalmare, avere sensori in giro, che poi ormai sono sempre più diffusi, e in base a quello che l'utilizzo che vuoi fare ti aiutano. Faccio un altro esempio sì. Per chi è interessato di video, ad esempio. C'è un oggetto che si chiama Swivel, dove in pratica se vuoi riprenderti ti hai un sensore addosso, hai il tuo telefonino che metti su questo oggetto e ti fa da personal cameraman, che uno dice, beh, è una cosa semplice e stupida, però in realtà è molto utile. Immaginatevi se voi volete fare, non so, dei video per YouTube o cose del genere. Grazie Marco Montemagno, e grazie anche a Lorenzo Montari, ricercatore psicologo, che è intervenuto appunto in questa domenica d'agosto. Il riposo del guerriero. Reason Cole in 8 years old. Senti chi parla. La nostra lingua nasconde misteri, e a svelarceli, come sempre, c'è Francesca Dragotto. Ciao Francesca, buona domenica. Buona domenica e benvenuti a Senti chi parla estate. Ecco sì, perché d'estate appunto si parla. Abbiamo cominciato con il verde tra i colori dell'estate, verde che si usa tantissimo per insomma tante locuzioni. Abbiamo proverbi, abbiamo modi di dire, tutti che contengono il verde, con significati anche completamente diversi. Sì, a tutti sarà venuto in mente l'idea di speranza, verde speranza, nel nostro caso la speranza di una vacanza, ma c'è anche una controparte che lega il verde alla morte, perché verde, più esattamente verdognolo, appare l'incarnato di chi sta male, la sua pelle. Il verde simboleggia inoltre invidia e gelosia, e in questo si divide il terreno con il giallo. Non è d'altra parte una cosa insolita che due opposti convivano all'interno dello stesso colore, e questo anche all'interno della stessa cultura. Ora, il verde all'interno dello spettro è ben riconoscibile. Il verde è un colore sia primario che focale, e questo fa sì che intorno a questo colore si siano organizzate davvero tante forme, tanti modi di dire, proprio perché si tratta di un qualcosa anche di evidente, molto evidente dal punto di vista visivo. Anche perché più semplici sono legati al verde, tipo insomma, le piante, l'ecologico, insomma, è ovvio associarlo al verde perché è il colore della natura, per cui pollice verde, faccio un esempio, polmone verde, quindi quando sì. Abbiamo una situazione di parco da qualche parte. Però perché la croce è verde, quella delle farmacie? Per la speranza probabilmente di soccorso, forse per la stessa idea anche il numero è stato identificato con il verde, il numero verde che sì. Si chiama in caso di problemi. Ma anche perché il numero che ci fa risparmiare, non lo paghiamo, e quindi è verde anche in quel senso, no? Beh sì, l'idea è proprio quella del soccorso, del mutuo soccorso, e quindi ti vengo incontro. Non si deve, è giusto che non si paghi, esatto. Ecco, poi abbiamo invece la frutta, che è verde per antonomasia quando non è matura, al di là che sia verde veramente o meno. Ecco. Beh sì, allude al fatto che il frutto non è acerbo, lo stesso modo di dire, però lo troviamo utilizzato per le persone, non tanto per l'età ancora piuttosto giovane, ma per il non essere eccessivamente avveduti. L'età verde è la gioventù, in altre lingue, questo è un modo di dire che ritroviamo anche in altre lingue, tra queste il francese, ma in francese sono verdi gli anni di chi, pur essendo avanti con l'età, è ancora piuttosto vigoroso. Ecco, quindi è bello avere gli anni verdi, sì, ti fanno sì. Pensare che ormai sei vecchio, però insomma non così decrepito, quello è il senso. No. Vabbè, okay. Sei ancora rigoglioso. Esatto, puoi ancora dare dei frutti ovviamente. Poi negli anni 50 sono stati inventati gli alieni verdi, è stato dato questo colore alla pelle dei marziani. Sì, gli omini non identificati a cui tutti ci riferiamo con UFO sono associati nell'immaginario collettivo, almeno di una certa epoca, appunto, al verde. Ecco, mi domando, per gli Stati Uniti il verde che valore abbia, visto che i loro dollari sono di quel colore? Beh, appunto, biglietto verde è il dollaro, abbiamo anche tante altre locuzioni, però ecco, quando nell'inglese americano si pensa ad un qualcosa di cartaceo associato al verde, non c'è dubbio che scatti l'immagine del dollaro. Ecco, l'abbiamo guardato tante volte, però visto che abbiamo parlato di soldi, c'è anche il modo di dire siamo al verde, e quello pare che derivi dalla riga che identificava le candele quando stavano per finire, credo che fosse quella la storia, sì, sì. Visto che la luce era data dalle candele e non c'era l'energia elettrica, quando si era al verde vuol dire che la candela stava per andare per esaurirsi e quindi andava sostituita, oppure si sarebbe rimasti al buio e da qui poi sì. Rimanere senza soldi, immagino. Sì, sì, sì, più esattamente, perché la base della candela era tinta di verde e quindi nel momento in cui si cominciava a vedere il verde, si doveva prendere atto dell'esaurimento in corso della candela stessa, della cera. Ecco, il verde è anche legato alla rabbia. Sì, e in questo appunto condivide degli spazi linguistici con il giallo. Abbiamo il ridere verde, che significa ridere in modo forzato, abbiamo sputare verde per indicare il fatto di adirarsi molto, l'essere verde appunto di bile per essere invidioso, essere arrabbiato, far vedere a qualcuno il sangue verde. Verde lo troviamo anche nell'espressione far vedere i sorci verdi, che però ha un'origine completamente differente, perché si rifà alla rappresentazione di tre topi sulla parte anteriore della fusoliera degli aerei di una squadra da competizione che era talmente forte da appunto costituire un competitore inarrivabile per tutti coloro che ci si cimentassero, e di qui appunto il nostro modo di dire, tuttora molto, molto vitale, molto in uso. Quindi quando vedi sorci verdi, insomma, sta per andarti male, perché questa squadriglia sta per arrivare ad abbatterti, quello è il senso. Sì. E difficilmente ce la si farà ad averla meglio. Senti, il verde è anche associato al tappeto, che è verde per il tavolo da gioco. Io così l'avrei associato alla speranza di vincere. Quando uno si siede al tavolo da gioco e spera di portarsi a casa dei soldi, può anche andargli male sicuramente, però potrebbe anche andargli bene. Da qui il verde è la speranza del giocatore, o mi sbaglio? È un'ipotesi, anche se i più ritengono che l'uso, l'associazione più esattamente del tavolo da gioco con il verde sia dovuto al rischio di morte insito nell'uso di alcune tinture necessarie, anzi di alcune sostanze necessarie a far fissare i pigmenti del colore sui vestiti degli attori. In altre parole, gli attori andando in scena ogni volta rischiavano di rimetterci la pelle a causa dell'avvelenamento, e da lì la trasposizione del panno dall'attore al tavolo da gioco si è portata dietro l'idea del rischio. Senti, perché, visto che parli di verde, gli attori in Francia il verde porta sfortuna, a teatro per noi è il viola? In Francia si dice che Molière, in occasione della sua ultima rappresentazione, indossasse dei vestiti verdi. Secondo altri questi vestiti erano gialli, ma appunto ritorniamo nell'ambito della mancata distinzione netta tra giallo e verde. Nel caso invece dell'italiano, il fatto che il viola sia associato dai teatranti alla sfortuna è da imputare al calo drastico di pubblico durante le rappresentazioni quaresimali, epoca di pentimento, epoca comunque di scarsa dedizione al piacere, ovviamente non poteva che essere un po' temuta dai teatranti per ovvie conseguenze. Chiaro, poi mi viene in mente che il verde è il via a qualunque cosa, il semaforo è verde quando devi passare, e il via libera, insomma, è quel colore. Perché è stato scelto? Cioè, c'è una ragione che magari arriva anche dal latino, o boh, non so, a un certo punto. No, sinceramente non conosco, no, non ho ragioni scientifiche per poter dire che sia così per una ragione o per un'altra. Di sicuro c'è una contrapposizione rispetto al rosso, che in maniera altrettanto netta è associato all'idea allo stop all'alto, fermata. Sì. Beh, credo che l'idea di via libera sia legata a quella di speranza, quindi a tutta quanta la valenza positiva del verde, mentre il rosso, che associa valenze tra loro diverse, perché abbiamo il rosso dell'amore, beh, ma anche della passione, anche. ragione, sì, del pericolo, sì, esatto, potrebbe essere stato associato allo stop per questa ragione, ma magari ci sarà anche una ragione più precisa che io non conosco. Ecco, c'è una curiosità legata a una lingua che ormai penso che sia perduta per sempre, che è l'esperanto, questa lingua che avrebbe dovuto unire tutte le lingue del mondo e che invece non ha unito nessuno, nel senso che insomma credo che questa cosa dell'esperanto sia andata un po' morendo. Mi spiace per chi l'ha studiato, però non so se ho ragione. Ci sono ancora tanti esperantisti in circolazione. Naturalmente nel momento in cui una lingua artificiale, quindi creata a tavolino, inizia a circolare, subisce lo stesso processo di ibridazione che sta subendo l'inglese, quindi inevitabilmente porta delle differenziazioni che sono legate a coloro che la parlano. No, credo quindi solo che l'inglese sia più universale, insomma alla fine sia un po' diventata quella la lingua che unisce tutte le altre. Credo. L'inglese altre, oggi ecco, sta facendo quello che negli auspici, fare, esattamente, esatto, sì. E non a caso si chiama così in omaggio alla speranza, all'idea appunto di egida linguistica che avrebbe dovuto riunire i parlanti di tante lingue differenti. Infatti anche l'esperanto ha una bandiera ed è verde. Sì. Sì, è verde, ha 5 punte e anche una parte dello sfondo è verde, quindi più speranza di così. Cioè, verde su verde non si vede niente. Senti, tu hai trovato anche un modo di dire che a me risulta un po' oscuro, nel senso che il proverbio dice: amicizia e nimistà non sta ferma in verde età. L'amicizia è molto chiara, io onestamente non so cosa sia la nimistà. Beh, movimentiamo questo Senti chi parla estate invitando i teleascoltatori, i radioascoltatori, sì, ad andare sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero su tuttopoli.com e a dirci secondo loro cosa significa questo proverbio. Beh, io ne aggiungo un altro, se vuoi, che è caricarsi di legna verde, che è un modo di dire che significa caricarsi di brighe inutili, faticose. Sì, perché la legna è verde, quindi all'inizio e quindi dopo e quindi credo che sia un po' quello il messaggio. Hai una chiusa, nel senso, hai un esempio, un termine che vuoi associare al verde che preferisci ad altri? Sì, sarò breve e vorrei dedicare due parole al termine crescita, perché crescita è una parola che, per quanto è diffusa in italiano, ci dà l'idea di avere una lunghissima storia alle spalle, invece è parola relativamente recente che soltanto ancor più di recente ha guadagnato spazio nel nostro repertorio linguistico a carico di altre forme quali cremento e crescenza. Quello che sto dicendo è che per tantissimo tempo crescita non è stata utilizzata e al suo posto si trovavano cremento e crescenza, anche se oggi la cosa ci può sembrare quasi assurda. È vero, una parola che sembra del passato e invece è molto più recente. Grazie Francesca D'Aragotto, vi ricordo la nostra pagina di Facebook, sicuramente Riposo del Guerriero, ma anche tuttopoli.com. A me sta nimistà, mi sta qui perché non so il suo senso. Grazie, ciao Francesca. Buona domenica colorata. Il riposo del guerriero. Il nostro cacciatore di libri è venuto a trovarci, Alessandra Tedesco, ciao. Ciao a tutti, perché noi non andiamo mai in vacanza, mai. Siamo qui per voi. Meno male, allora oggi parliamo di verde. Sì. E verde può essere tante cose, e lo so che viene in mente il colore delle tasche, purtroppo, per molti. E invece verde può essere tanto, può essere speranza, sicuramente. La speranza, ecco, tutto ciò che è green ormai va di moda. E che brutto dire che il green va di moda, però, pensaci. Però è così, è un po' caro triste. Mio. Lo so, dovrebbe essere sempre, però. Sì, non deve essere di moda, deve essere una consapevolezza e basta. Ecco. E infatti, guarda un po' di che colore la copertina, non la potete vedere, lo so, però se entrate in una libreria la potete vedere, guarda di che colore è questa copertina. Verdino. Idromania. Eh sì, perché tu mi hai chiesto, dice, cacciatore di libri, trovami qualcosa che abbia a che fare appunto col green, con l'eco, eccetera. E io non volevo portarti solo dei manuali, volevo portarti un romanzo. Questo è un eco thriller, si intitola Idromania, l'ha scritto un giovane autore israeliano che si chiama Asaf Gavron ed è pubblicato da La Giuntina. La Giuntina è questa casa editrice appunto che pubblica scrittori ebrei. Questo giovane scrittore, insomma, ha girato un po' il mondo, adesso vive a Tel Aviv, si è inventato un mondo nel futuro, un mondo fra 60 anni, dove problema principale è la mancanza di acqua. L'ha ambientato in Israele, Israele se la immagina come una piccola enclave perché ormai la Palestina ha preso il sopravvento, l'acqua appunto è veramente distillata nel vero senso della parola e dominano delle multinazionali cinesi, giapponesi e ucraine che detengono appunto il potere dell'acqua e gli abitanti non possono gestire soldi ma hanno dei microchip nelle braccia, è un romanzo appunto, è un eco-thriller fantascientifico, insomma, guarda che io in genere non amo, però... non amo la fantascienza, ma devo dire che questo romanzo è ben fatto e accattivante e ha poi i temi eco di cui tu mi parlavi perché appunto l'acqua diventa la risorsa principale, non è poi così fantasioso e quindi c'è una donna, una ragazza che è alla ricerca del marito che è scomparso, il marito era un ingegnere e stava mettendo a punto un sistema perché l'acqua potesse diventare, come dire, di dominio pubblico e non più gestita da queste multinazionali. E allora sentiamo l'autore Asaf Gavron con la traduzione di Shulim Vogelman, il traduttore del romanzo e poi anche l'editore italiano. Ani kodem kol ratziti לדמיין, זה התחיל מזה שדמיינתי את עצמי בגיל 99. Prima di tutto ho iniziato dal fatto che mi sono voluto immaginare all'età di 99 anni. ומשם התחלתי לחשוב על העולם שיהיה בזמן הזה, באיזה שנה זה יהיה, איך ייראה העולם, איך תהיה הפוליטיקה, איך תהיה הטכנולוגיה. E da lì ho iniziato a immaginare come sarebbe sembrato il mondo in quell'anno, come sarebbe sembrato dal punto di vista politico, economico. והרעיון לכתוב את זה בכיוון של אקו ת'רילר הוא פשוט נוצר תוך כדי העבודה. זאת אומרת, האקו בא מהעולם הזה, מהמים, והסגנון של הספר כבר התפתח לבד. E l'idea di renderlo un eco-thriller è nata nel mezzo della scrittura e la parte ecologica viene così da questo mondo che volevo immaginare, in particolare da tutto quello che riguarda l'acqua, e così è nato. אז אני חשבתי על אותו עולם שיכול להיות עוד 60 שנה. Io ho pensato al mondo che sarebbe potuto essere tra 60 anni. וכל מה שקורה בעולם הזה שדמיינתי הוא בעצם המשך של דברים, של תהליכים שכבר קורים היום. E quello che succederà in quel mondo in realtà è una continuazione di processi che già esistono oggi. זה גם מבחינה אקולוגית, global warming, וגם מבחינה טכנולוגית, איך שהמחשבים מתקדמים, וגם מבחינה פוליטית, איך הדברים מתפתחים בישראל. Sia dal punto di vista ecologico, ad esempio con il surriscaldamento globale, oppure dal punto di vista della tecnologia, con il modo in cui funzionano i computer o la rete, oppure dal punto di vista politico, con le grandi alleanze che si creano. וזה הסנריו שהגעתי אליו, אם הוא טוב או לא, אני חושב שזה משהו שאפשר להתווכח עליו. E il romanzo è lo scenario che ho costruito, al quale sono arrivato, e poi si può discutere se è un buon scenario o un cattivo scenario. Beh, invece non lo discuterei, nel senso che lo si deve immaginare leggendo il romanzo. Assolutamente, basta. È uno scenario appunto verosimile, possibile, che questo scrittore israeliano Asaf Gavron è riuscito a declinare bene in questo romanzo Idromania. Ecco, poi invece passerai a dei manuali. Ci toccano in questo caso, insomma. Allora, vivere green, il verde va di moda, non è lo slogan di prima, ma il titolo appunto di un manuale scritto da Annalisa Varesi, pubblicato da Epli, questa casa editrice antica milanese, e così dice la copertina: 99 idee verdi alla portata di tutti. Naturalmente ci sono consigli per l'alimentazione, la casa, la moda, la bellezza e così via. E poi, visto che questo colore verde l'abbiamo voluto declinare anche come il colore dei soldi, quindi al risparmio, Milano Low Cost, una guida per quanto riguarda chi frequenta Milano, chi abita a Milano, pubblicata da Burr, scritta da Bruna Gerner e Luca Giorcelli. Ci sono praticamente indirizzi di luoghi, siti web dove si possono trovare dei prodotti per esempio non confezionati e quindi il cosiddetto packaging, che incide molto nel prezzo di un prodotto. Non soltanto, ma anche caso, quando butti via il packaging. Esattamente, quindi green in tutti e due i sensi, in tutti e due i sensi, e quindi oppure dove si possono scambiare per esempio mobili e così, insomma, vivere in modo low cost e green allo stesso tempo. Ecco, molti libri fra l'altro alla fine hanno stampato un marchio che è FSC, uh-huh. e fanno parte di quei libri scelti da scrittori per le foreste, una campagna sì. lanciata da Greenpeace. I libri stampati in questo modo sono certificati perché la carta arriva da fibre riciclate post consumo sì. e fibre vergini provenienti da buona gestione forestale e da fonti controllate. Sì, sono tantissimi gli scrittori che scelgono proprio, magari lo chiedono proprio all'editore, molti editori lo fanno del resto. E poi arriviamo al costo dei libri. Io vedo io così guardo tutti i libri che hai portato, caso, sì. ecco, guardo sempre, insomma, 15 euro. Variano molto, ma di 18. Base siamo sui 15, esatto, diciamo sì, una media 16. È quella. Sì. Allora, la media sì, è 15 euro, ci si lamenta, costano tanto i libri e così via. Io faccio sempre un classico esempio, quando andate a mangiare pizza e birra quanto spendete? Sì, 15 euro. 15 più o meno, dipende dalle parti d'Italia. Quanto dura il vostro godimento? Un'ora? Quando leggete un libro, invece, il vostro piacere dura per alcuni giorni. Anche se poi è un piacere diverso, non è un ma piacere del palato, è un piacere intellettuale. Che e mi va bene mangiare così. C'è bisogno. No, ho parlato dare di cibo piacere. Alla cultura. No, no, no, e beh, anche del cibo per la mente era abbiamo una battuta bisogno, la mia, ovviamente. Ovviamente. Però capisco che in un momento di difficoltà come questo, soprattutto i ragazzi e i lettori forti sono in difficoltà. Io stessa quando vado in libreria, perché oltre a ricevere quelli per lavoro, io compro molti libri per me, effettivamente quando esco ho speso una bella somma. Allora ci sono delle strategie. Innanzitutto, abbiamo pochi soldi a disposizione, ci piace leggere? Non è detto che dobbiamo leggere delle cose poco interessanti. Per esempio i classici. I classici ormai, siccome i diritti sono scaduti sì, dopo 70 anni dalla morte, hanno prezzi molto più bassi. Un classico per tutti, La metamorfosi di Kafka. Mi vuoi dire che è un brutto libro? È un libro appassionante anche per i ragazzi. Adesso l'ho citato così. Sì. Io l'altra volta, 2-3 mesi fa, ho letto Alice nel Paese delle Meraviglie, che non avevo mai letto. Ho speso 7,50 euro. Ecco, poi devo dire che comunque esiste lo scambio dei libri, come c'è sempre stato. Esistono le biblioteche ancora. Esistono le biblioteche dove si possono prendere in prestito. Esistono i libri usati a metà costo. Poi ma anche tra amici, cioè tra amici si può decidere anche di comprare un libro e di passarselo poi. E poi bisogna anche non me ne vogliono le case. Ecco, editrici, io non voglio però fare il pippone, come dire, della persona che segue il mondo dell'editoria, ma io preciso una cosa, come si arriva al prezzo di un libro? Il 50% è il costo della distribuzione, sì. il 20% è il costo della carta, il 30% si divide fra l'autore, l'ufficio stampa, la redazione, l'editor, il guadagno della casa editrice, eccetera. Se si scende troppo al di sotto di questo prezzo, non si riescono a fare libri di qualità. Vogliamo il self-publishing? Un euro al libro? Benissimo, ma non è un libro di qualità. Non parliamo di narrativa letteraria, parliamo di io racconto le mie cose e le faccio leggere. Questo vale anche per l'abbigliamento, eh? Quando tu spendi 2 euro per un paio di jeans e è poi chiaro ti si scolorano che addosso non puoi avere la qualità. Sicuramente è vero che l'editoria elettronica invece offre gli stessi libri anche appena pubblicati di solito al 50%. Certo, non hanno il costo meno della carta, esatto, per esempio. E il anche costo distribuzione di distribuzione è diversa. Non è che non c'è un costo, perché comunque le piattaforme che vendono gli ebook si fanno ovviamente pagare una percentuale. E poi ricordiamoci ancora che in Italia gli ebook hanno ancora un'IVA elevata al 21%, mentre i cartacei al 4%. Quindi alla fine finiscono per avere una differenza non grandissima, comunque la differenza c'è. Insomma, qualche soldo per i libri, spendetelo. Ma sì, via. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Ad agosto li abbiamo riuniti insieme tutti e due, Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi. Ciao, benvenuti, buona domenica. Ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Allora, parliamo di giochi e videogiochi, quindi mettiamo le cose un po' insieme, anche se sono distinti, però insomma facciamo che siamo amici per un giorno. Vabbè, sono sempre due modi diversi di giocare, ma è sempre gioco. Quindi una cosa serissima. Esatto, il gioco è una cosa seria. È vero. Andrea, da dove partiamo? Oggi il verde è il nostro colore, sì, che vuol dire molto ecologia, ma anche risparmio, cercare insomma di divertirsi senza svuotare le tasche. No, allora diciamo, io volevo parlare di giochi e quindi vi citavo alcuni titoli titoli in, rapidamente. Poi si può parlare anche di economia nei giochi da tavolo, ad esempio sui materiali. Ci sono alcune ditte che hanno fatto delle ricerche sui materiali cercando di ottimizzare l'uso del legno invece della plastica, insomma cercare di utilizzare materiali naturali o parti riciclabili, ma diciamo questo purtroppo non è ancora una pratica molto diffusa nel mondo dei giochi da tavolo, anche perché le tirature non sono infinite, quindi l'impatto non è così grave. Volevo parlare di due titoli del 2012, uno che si chiama Ginkgopolis, che prospetta questo mondo in un futuro neanche troppo remoto in cui le risorse sulla Terra sono diventate rimaste veramente poche e la città devono essere sviluppate sfruttando quel poco che c'è in armonia con la natura. È un gioco da tavolo classico, non ha la plancia, ma la mappa viene creata man mano utilizzando delle tessere. I giocatori devono, diciamo, costruire questa città insieme e ovviamente ognuno cercando di portare avanti i suoi interessi. Quindi i giocatori si preparano a quello che sarà il futuro. Esatto. Più o meno, speriamo che non sia proprio così, però... Il gioco è di Xavier Georges e in Italia è edito da Uplay ed è un gioco del 2012. L'altro gioco, sempre del 2012, a tema ambientale, invece si chiama CO2, il titolo già spiega. Dice tutto ed è un gioco in cui, diciamo, i giocatori cercano di sviluppare un sistema energetico a impatto ambientale minimo e quindi, diciamo, il tema dell'ambiente emerge proprio nel gioco. Sull'ambiente in maniera generica invece volevo dare un consiglio di un gioco da bambini e si chiama Animali da Record ed è un gioco della Clementoni molto carino in cui i giocatori devono in pratica indovinare fra gli animali presenti sulla plancia quello che è ad esempio il più pesante o quello che è il più lungo, quello che è il più veloce, quello che vive più a lungo, quindi viene girata una carta che determina qual è la caratteristica e i giocatori devono identificare tra gli animali presenti sulla plancia qual è quello tra le carte che, la figura che corrisponde esatto. Alla carta scelta. Tu dici per bambini, non hai detto che un adulto però sa per rispondere. No, esatto, no tra l'altro anzi i bambini spesso su queste cose qua nel catalogare sono molto più efficienti di noi. Ultimi due giochi in carrellata rapida, Fauna, che è lo stesso meccanismo però è un gioco più strutturato, edito dalla Divigiochi e in cui c'è una mappa, ci sono degli animali e vengono girate delle carte animali, i giocatori devono identificare le zone del mondo dove vive questo animale o qual è la lunghezza stimata della coda di questo animale, l'altezza, il peso. È molto più difficile. Ecco, però queste informazioni le recuperi, le devi sapere o le recuperi perché intanto nel gioco sono state raccontate in qualche modo? No, uno le deve sapere. Poi in realtà si controlla perché il retro delle carte hanno sempre riportate le informazioni, quindi diciamo giocando più volte a questi giochi diventano patrimonio comune, però rimane pur sempre difficile determinare se pesa di più un gorilla adulto o un ippopotamo ad esempio, quindi uno non se le ricorda queste cose qua. L'ultimo gioco di cui volevo parlare è Mirmes, che invece è molto singolare perché rappresenta la vita di un formicaio, quindi ogni giocatore manovra un formicaio e con le formiche deve riuscire con le sue formiche a far sviluppare il suo formicaio, a esplorare l'ambiente intorno, raccogliere cibo e altri materiali per il formicaio e crescere e battere gli altri giocatori. Ecco, in questo caso chiaramente è tutto finto, mentre d'estate c'è chi compra i formicai trasparenti, no? Dove devi farvi vedere come si muovono. Esatto, formiche, io in casa eccetera. Mia non sì. L'ho comprato e mi è venuto il formicaio. Non è trasparente, no, non però è trasparente. Quindi non puoi vedere cosa succede all'interno, no. Questo è male, dovresti mettere i raggi X e controllare poi. Però esistono, insomma, sono giochi che devo dire che aiutano a capire il meccanismo anche naturale di come funzionano le cose. Nelle scuole vengono utilizzati questi giochi o no? Non so neanche che esistono. No, allora, nelle scuole l'ambiente è un tema su cui le scuole sono sensibili, ma purtroppo le scuole tendono a usare solo giochi didattici nelle scuole. Io sono non troppo favorevole ai giochi didattici, io penso che abbia più potenzialità didattica un gioco divertente piuttosto che... Io non riesco a capire la differenza, nel senso che un gioco, il CO2 per esempio, già per come sono impostate le regole, è didattico per forza. Sì, però non è un gioco che viene fatto come target per essere divertente e vendere a livello commerciale, quindi l'obiettivo di quel gioco lì è che sia un gioco divertente, poi ha un bel tema e insegna nel tema. I bambini quando si divertono imparano però, esatto. Come dici tu. Mentre nei giochi didattici sono un po' come i biscotti salutari, che rispetto al biscotto al cioccolato sono per i bambini molto meno appetitosi. Quindi nel rapporto che bisogna c'è, bisogna fare i biscotti salutari al cioccolato. Esatto. Per le due cose forse cancella una l'altra. Però insomma, mi domando perché, tu che poi nelle scuole insegni, sì, anche a giocare, mi domando perché venga preferito il gioco didattico che magari è noioso. Diciamo che c'è ancora la cultura del gioco da tavolo in Italia, deve crescere sotto molti aspetti, anche diciamo nel contesto scolastico. Diciamo, gli insegnanti devono sviluppare la conoscenza e il fatto che che possono utilizzare dei giochi anche commerciali con delle valenze didattiche, anche perché le hanno davvero. Infatti non è mai stato preso sul serio il mestiere di Emilio Cozzi. Ciao Emilio, buongiorno. Ti ringrazio Stefano per questa presentazione, perché quando si recensiscono i videogiochi la domanda ancora oggi è quella, cioè che lavoro fai? Hai assolutamente ragione, tanto che il problema secondo me è ancora più grave, cioè il videogioco è percepito come una cosa ancora, poco, ancora, tuttora. Io spero sempre che sia un po' meno forse rispetto al passato. Di sicuro meno, anzi c'è, come dire, il adesso tema... ma i quotidiani se ne occupano, prima assolutamente non era così, sì, a meno sì, che non dire che facevano male, no, creavano solo mostri. È brutto essere, come dire, autocitarsi ed essere autoreferenziali, però anche sul sole, sì, è giusto. Dire, affronto il videogioco con un taglio che è quello suo vero dal mio punto di vista, cioè essendo il videogioco un artefatto culturale, come tale va trattato perché è portatore di idee, ideologie e di valori, tanto che il tema di oggi è perfetto, nel senso che anche la tematica ambientale, la cura per l'ambiente o la gratuità, l'economicità sono valori che i videogiochi interpretano molto molto bene. E per quest'estate cosa ci consigli di verde? Per quest'estate vi consiglio, e con grande, come dire, fierezza, di partire dall'Italia, sì. Ne abbiamo già parlato con il Riposo del Guerriero, mi riferisco a due giochi di Paolo Pedercini, come dire, in arte mollaindustria.org, un artista, perché questa è la sua definizione più esatta, che utilizza il videogioco per fare critica anche politica e anche sociale. Questi due videogiochi con cui partiamo sono Oligarchi, che come dire, il titolo è già piuttosto esaustivo, e McDonald's Adventure, che videogame, pardon, che come dire, non insegna a fare bene i panini, mettiamola così. Detto questo, come dire, l'ultimo anche... Una volta c'era Burger Time, esattamente, credo sia 84. Ecco, come vedi che anche lì i valori sono cambiati, eravamo negli anni 80, piena era reganiana, adesso come dire, il videogioco interpreta benissimo il proprio tempo. L'uomo scappava però. Esatto, esattamente. Mentre, come dire, no, qui non si scappa più, il blockbuster, per esempio, arriviamo anche lì, The Sims, l'ultimo episodio è appena uscito, poche settimane fa, il tema ambientale, l'inquinamento anche nel gioco, un gioco, ripeto, blockbuster, va controllato con grandissima attenzione, quindi anche nel gioco, diciamo, costoso, però l'aspetto ambientalistico è estremamente importante. Arriviamo invece dall'altra parte, anche dal punto di vista dell'economicità, a giochi gratuiti che si trovano online. Ne cito tre, in realtà il panorama è estremamente più vasto, ma voglio essere sintetico. Nuclear Power Plant Simulator, dove si controlla una centrale nucleare con tutti i rischi del caso e bisogna limitare, come dire, l'azione che la centrale può avere. Con Homer Simpson detto la sicurezza? Speriamo, dipende dal giocatore, al giocatore. Potrebbe anche essere il picchio ammesso per controllare gli interruttori. Poi BBC Climate Change, laddove appunto il clima diventa protagonista, si è presidenti delle nazioni europee, quindi come dire un gioco anche futuristico, e come tale occorre controllare e distribuire le risorse energetiche. E chiudo con un gioco, si chiama Climeway, sempre dedicato al clima, però laddove ci sono degli obiettivi da perseguire estremamente realistici, le emissioni dei gas di scarico, obiettivi da raggiungere che in qualche modo dicono molto più del gioco poco serio. Per questo torniamo all'inizio, il videogioco è tutt'altro fuorché puro intrattenimento, come vogliono farci credere, non esiste il puro intrattenimento. Sono d'accordo con te, lo sai Emilio, fra l'altro molti giochi sono gratuiti, oppure ne esiste la versione gratuita con i banner pubblicitari. Esatto. E invece quella a pagamento che non ha i banner. Allora io do un consiglio, cioè così lo dico, perché sviluppare un gioco comunque costa tempo, energia, fatica. Se vi piace il gioco gratuito, togliete i banner pubblicitari e pagatelo, tanto sono 99 centesimi, di solito 1,99, non è che sia un prezzo alto. Sono d'accordissimo, addirittura questa politica, non voglio, come dire, incensarlo continuamente, Pedercini lavora o fornendo giochi gratuiti o addirittura consentendo, nel caso dell'ultimo suo gioco, un'offerta libera che lui poi devolve spesso in beneficenza, per cui sono d'accordissimo con te. Anch'io con lui e con la sua scelta. Dimmi. Dicevo che io personalmente, se un gioco mi regala più di un'ora di divertimento, io lo acquisto, indipendentemente dal costo se non è un costo proibitivo, proprio perché secondo me è giusto che chi regala divertimento agli altri sia gratificato anche economicamente. E con questo chiudiamo questa parentesi dedicata al mondo dei videogiochi nel riposo del guerriero. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Non sarebbe estate senza Marta Cagnola. Ciao Marta. Ah, che bello essere identificata con l'estate. Mi piace molto, anche se sono ottobrina e autunnale, però dai, l'estate è bella, piena di speranze, di desideri. Sembra tutto possibile quando inizia agosto. Esatto, è proprio così, anche perché ti si dovrebbero aprire le prospettive per, diciamo, il nuovo anno non solare, ma il nuovo anno in generale. Ma si sa che il nuovo anno non inizia mai. No, inizia a settembre. Inizia a settembre, inizia quando si compra l'agendina nuova. Esatto. Ormai non si fa più neanche quello. Però insomma quando si compra il telefonino agenda, lo smartphone nuovo, esatto. Per punto, me l'anno il tablet inizia ufficialmente alla fine della mostra di Venezia. Io riparto da Venezia, quindi attorno al 7, 8, 9, 10 a seconda degli anni di settembre, e quello per me è Capodanno. Ecco. Tu quindi festeggi il Capodanno veneziano, non il Capodanno cinese, che è un altro ancora. Vabbè. Il Capodanno veneziano, però già si sa qualcosa di quello che succederà quest'anno. Allora, io sono già andata un po' a curiosare per te. Hai fatto bene, grazie. Allora, a proposito di verde, questo è il colore di oggi, e quindi non soltanto ecologia, ma anche appunto speranza, visione del futuro, insomma il verde rappresenta molte cose, anche la rabbia per alcuni aspetti, perché se si dice diventare verdi dalla rabbia. La bile, sana. Ecco, allora, noi però parliamo di cinema, di serie TV e di musica. Ho pensato a queste anticipazioni, soprattutto nei mesi tra settembre e dicembre. Non andiamo troppo in là, che potrebbe succedere tutto. Sul verde mi sono concentrata un po' sull'ambiente, sai, quest'anno si parla molto paradossalmente, l'anno scorso era l'anno dei Maya, invece quest'anno sarà un anno molto concentrato sulla fantascienza, tra film, televisione, insomma andiamo a vedere. Intanto al cinema io ho scelto un film di animazione, non so. Quindi oltre a quello che noi stiamo vedendo in generale c'è anche dell'altra fantascienza? È difficile superare la nostra però realtà. Però ci si può riuscire a quanto pare. Con l'animazione si può tutto. Con l'animazione si può tutto, soprattutto cercando di proiettarsi in mondi diversi. L'anno scorso fu l'anno di Ralph Spaccatutto. Molto divertente. Che ha spaccato il botteghino. Sì. Quest'anno, un altro film dedicato, destinato a diventare un grande classico, sarà Frozen, il regno di ghiaccio. E già qua ci possiamo immaginare delle animazioni divertentissime. Il regista Chris Buck ha lavorato alla Sirenetta e a Pocahontas, e l'altra regista Jennifer Lee è proprio una delle autrici di Ralph Spaccatutto, quindi una garanzia. È un musical, ovviamente Disney, basato sulla favola della regina delle nevi di Andersen. Cosa succede? Chi se la ricorda? Una profezia ha intrappolato un intero regno in un inverno nevoso. Ecco qua l'ambiente dove ho trovato l'appiglio. Sì. La sognatrice Anna viene maledetta dalla sorella estraniata Elsa, cioè la regina delle nevi. L'unica speranza della giovane per invertire la maledizione è riuscire a sopravvivere in un viaggio pericoloso ma eccitante attraverso un paesaggio gelido e spietato. Succederà di tutto in animazione. Abbiamo l'ambiente, credo, abbiamo la speranza, ci siamo col verde. Credo che ci sia poi anche un bel finale, no? Ma credo. Non sarebbe un film Disney, altrimenti non sarebbe una favola. Lo sappiamo già come andrà a finire. Sembri la mia amica Laura che ogni volta che mi chiede se vale la pena vedere un film, mi chiede: ma finisce bene? Altro che prima. Me lo chiede prima, no, perché se finisce male lei non ci va. Sì, ci sono quelle cose che tu dici, non ho voglia di piangere, di star male, che mi voglio disperare ancora, e quindi ogni tanto il lieto fine fa bene. Lo dico perché in questo periodo di crisi in generale, come sappiamo, film, ma anche serie televisive, hanno dei finali che non sono proprio felici, no? Sono molto più vicine alla realtà delle cose. Io non so perché spesso il cinema segue l'umore al posto di cercare di ribaltarlo, sennò forse viene recepito troppo farlocco. Quest'anno però, secondo me, a parte questa fuga dalla fantascienza, ritornano anche un po' le commedie, perché soprattutto in Italia si sente il bisogno, come sempre nei tempi difficili, insomma, di sorridere anche, un po', di svagarsi. Ecco. Favorevolissima, strafavorevole. E per quanto riguarda i finali, purtroppo ultimamente si privilegia il finale aperto per una questione molto pratica, perché si spera sempre di poter fare dei sequel e ogni volta torniamo sul discorso dei sequel. Volevo segnalarti un altro film, Elysium, una storia fantascientifica per raccontare i difetti di una società umana, beh, insomma, c'è Matt Damon, c'è Jodie Foster, è un altro film di fantascienza, direi che siamo a posto anche qui. Tu dici che il filone quest'anno sarà un po' quello del, sai che ho studiato un po' e ce ne sono tanti di film e di serie televisive fantascientifiche. Poi parleremo anche di quelle, fra l'altro. Ti citerei, visto che questo verde mi ha appunto ispirato un po' di tematiche così ambientali, ma in questo periodo appunto declinate un po' al catastrofico, ahi noi, per questa stagione televisiva, attesissimo per il canale americano CW, che è rimasto orfano di Gossip Girl, quindi è rimasto orfano di una grande serie televisiva che portava grossi ascolti, cancellata per tante ragioni, cancellata perché gli ascolti stavano calando, cancellata perché gli attori stanno diventando troppo importanti, e lo sappiamo che succede negli Stati Uniti. Il nuovo successo annunciato sarà I 100, allora senti qua, basata sulla saga letteraria ancora inedita di Cass Morgan, quindi arriverà anche una saga letteraria. No, mi fa un po' sorridere, no? Basato pronto? Su una saga letteraria ancora inedita, come dire, basata su un successo inedito. Un po' esatto. Quella e la quindi, chiave, no? E quindi preparati perché già dovremo sapere tutto di questo, certo. The 100. Perché? Perché siamo a metà strada tra Lost e sì. Il Signore delle Mosche. Cosa succede? Una guerra nucleare ha distrutto la civiltà sulla Terra. Sì. Ciao. Vabbè, ciao. Verde, ciao. Ma qualcosa è rimasto. Certo, 97 anni dopo, sì. Gli unici sopravvissuti sono 400 abitanti di 12 stazioni spaziali internazionali. Ah, quindi neanche qua sono da un'altra parte. Decidono di tornare sul pianeta Terra. Perché? Forse per curiosità, per sì. Vedere chissà vogliono come sapere si sta dove, da dove arrivavano. Ma sì, no? Questo lo sapremo quando leggeremo la saga di successo inedita. Sì. Però cosa è successo? Che nello spazio, sì. E qua sta la cosa carina, sono nate 3 nuove generazioni. Mm. I sopravvissuti adesso sono 4.000. Le risorse sono agli sgoccioli, forse è per questo poi tornano sulla Terra. Ovviamente devono trovare non solo un sistema per sopravvivere, ma anche un appiglio per creare la narrazione di questo telefilm. Sì. Cosa fanno? Mandano in esilio 100 prigionieri minorenni verso la superficie terrestre. E qua sta Il Signore delle Mosche, quindi i ragazzi che devono sì. Ricreare una civiltà. E questo può essere interessante. Questo può essere interessante. Quindi un po' Signore delle Mosche e un po' Lost. A me incuriosisce questo. Devo capire se è più destinata ai ragazzi proprio oppure più agli adulti. Cioè alla fine i protagonisti, da quello che capisco, sono dei ragazzini, no? Secondo me sì, i protagonisti sono ragazzi, però secondo me il plot potrebbe essere, l'intreccio potrebbe essere interessante anche per gli adulti, appunto per questa atmosfera un po' Lost nel futuro. Vedremo. Vedremo, staremo a vedere. Vuoi sapere anche qualcosa che mi ha ispirato sì. La musica sì? Nel colore come verde? No, certo. Ho pensato, qual è l'artista più verde, più amante della natura, uno dei primi a scoprire le gioie della natura, e non sto facendo doppi sensi perché sto parlando di Sting. Sì. Esperto di gioie della natura. Se ha scelto una casa in Toscana, un motivo ci sarà. E a quello mi riferivo. Non produce anche, credo che produca anche qualcosa. Perché ormai producono, secondo non me, prato, che producono, producono tutti. Tutti producono tutto e fanno bene. Ma qual è la grande notizia che riguarda Sting? Beh, annuncia un nuovo disco, The Last sì. Ship, con pezzi originali. Sarà un autunno finalmente di grandi rientri, ne parleremo nelle prossime settimane. C'è un altro grande rientro che mi incuriosisce molto, di un artista che amo molto, ma non ve lo svelo subito. Ebbene, torna anche Sting. The Last Ship in realtà è legato a un musical ambientato negli anni 80 che andrà a scena a Broadway nel 2014. La data di uscita dovrebbe essere il 24 settembre dell'album. Sting ci ha lavorato per 3 anni, al musical ha collaborato lo sceneggiatore di Skyfall, quindi insomma non si prevede le premesse, un plot interessante. Ecco, le premesse sono interessanti. La direzione del musical è quella di John Mantello, già conosciuto per Wicked e Other Desert Cities, ma soprattutto arriva subito l'album, perché per vedere il musical non solo dovremo aspettare il 2014, ma dovremo andare a Broadway, cosa che piacerebbe a tutti, ma insomma non è proprio pratico. è ambientato in un cantiere navale dell'Inghilterra di Margaret Thatcher. Da qui Last Ship, l'ultima nave. Ed è appunto ambientato negli anni Ottanta, quindi si spera che certe atmosfere musicali che hanno portato particolare fortuna a Sting siano quelle. A me incuriosisce molto. Cosa succede per quanto riguarda la musica? Si mantiene il trend del passato, cioè si afferma sempre di più la musica digitale. È inevitabile. E quindi cosa succederà quest'anno con gli album? Usciranno moltissimo in confezioni deluxe o deluxe. Sì. Perché mai quello credo che sia il mercato, cioè chi vuole la canzone o l'album così e lo compra attraverso la rete o quindi scarica lo un file. Ascolta con lo streaming legale. Esatto. Con tutti... Però invece chi vuole acquistare quindi è un po' più feticista e quindi pretende pagando di avere qualcosa di più di un semplice file. E infatti arriveranno una versione da 12 canzoni disponibile anche in vinile, una con due dischi contenenti 5 tracce addizionali, una super deluxe con 20 tracce con un packaging speciale, insomma, per i fan. Ormai il trend è questo. Ecco, mi rendo conto che il mercato in questo senso può funzionare solo con i grandi nomi, perché un può piccolo funzionare solo con i grandi un nomi piccolo nome non ti fa, non può fare la versione deluxe, la versione con 5 pezzi in più, eccetera. Può funzionare con i grandi nomi che hanno una fan base solida, certo, che vuole spendere sì. 50, 60, 80, 100 euro per possedere un feticcio. Sì. Oppure può funzionare con gli idoli delle ragazzine, perché le ragazzine vogliono avere è sempre anche il feticcio, anche giustamente. L'oggetto, e quindi insomma quello sarà un po' il trend del futuro. Grazie Marta Cagnola, ci sentiamo domenica prossima. Alla prossima settimana. Il riposo del guerriero. E in questa versione estiva del riposo del guerriero è arrivato l'appuntamento con Marco Lombardi, che saluto. Ciao Marco. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti i vacanzieri e non. Allora Marco è, oltre che critico cinematografico, anche autore di Cinegustologia, l'abbiamo già avuto come ospite, è un sito internet che unisce il film a delle ricette, perché ogni film ha la sua ricetta, ma non soltanto nel senso di costruzione di una storia, regia, eccetera, ma anche ricetta vera e propria, almeno secondo Marco. Ma tu vai, quando vai al cinema a vedere un film, ti porti anche un piatto e te lo assaggi nel frattempo, cioè unisci proprio le due cose? Non ti è mai successo, a parte i popcorn. No, mi succede, anzi, in questi tempi di crisi, vedere un film pagando il prezzo del biglietto e allo stesso tempo nutrirsi è veramente un grande risparmio. Quindi due cose insieme, assolutamente. La stessa cosa succede anche quando mangio, mi immagino un film, insomma, è una specie di sinergia di quelle che funzionano di ecco, questi tempi. Quello magari è un pochino più facile, a casa soprattutto. Allora, cominciamo oggi, parliamo del verde, e tu il verde l'hai associato ovviamente ad alcune ricette e poi ad altrettanti film. Sì, infatti il giochino che faremo insieme è proprio quello di ogni volta partire da un colore, raccontare un piatto, una bevanda e poi da lì raccontarlo invece con il cinema. E sono tutti naturalmente piatti e bevande estive. Il verde inizia con una cosa che è detta così forse è un po' triste, le insalate. Vabbè, ma quando si arriva nel periodo estivo, il costume da bagno, insomma, ci sono tutta una serie di nevrosi legate alla linea. Quindi l'insalata è veramente il piatto o non piatto che si usa tantissimo, perché ci si illude che mangiando un piatto di insalata si dimagrisca, insomma, si diventi più belli, eccetera, eccetera. Sì, soprattutto poi gli ultimi 10 giorni, hai capito? Cioè, sì, bisogna forse farlo qualche mese prima, ma comunque ci si sveglia sempre troppo tardi. Ma l'insalata ha anche il suo perché d'estate, la si mangia anche molto volentieri, dieta no, a parte. Tra parentesi, noi purtroppo siamo abituati mediamente alle insalate di plastica dei supermercati, ma le insalate, quelle vere, prese in luoghi veri, coltivate con semi veri, non OGM, eccetera, hanno all'interno una complessità di profumi e di sapori pazzesca, quindi non è sminuente. Certo che le insalate delle buste, insomma, lì sono è tutto lavato, compresso, non immaginiamo dove vengano coltivate, però insomma, quindi l'insalata è una cosa che va presa in maniera seria. Io adesso non so se senti la mia provenienza territoriale, è probabile che quando dirò la parola verde ogni tanto vada in pausa sulla è lunga, ma insomma, mi interromperai se questo dovesse succedere. Secondo me le insalate, e poi racconterò un po' i vari tipi di insalate perché ognuna è associabile a un film, mi fanno pensare alla commedia all'italiana, un certo tipo di commedia all'italiana, quella di Dino Risi. L'insalata, innanzitutto la croccantezza, io quando sento qualcosa che mi crocchia in bocca mi viene da ridere, quindi la collego all'ironia. Quindi la commedia all'italiana, quella di Dino Risi, è estremamente ironica, estremamente croccante come una foglia di insalata. estremamente cruda anche, perché Dino Risi, a differenza magari di altri autori della commedia all'italiana che sono stati più morbidi, più rotondi, ha una sua crudezza forte. Adesso poi lo vedremo insieme con alcuni film. E soprattutto l'insalata c'ha l'amaro, e l'amaro che spesso e volentieri è una nota che arriva sul finale. Quindi noi, insomma, come succede con una commedia, prima la sentiamo croccante, ci divertiamo, ridiamo, sentiamo una crudezza, ma che comunque tutto sommato dà anche freschezza. Il finale, la botta finale amara, e insomma alcuni dei film adesso che appunto vedremo hanno veramente, insomma, il finale che è profondamente amaro. Tra queste caratteristiche, quindi, tra l'altro, sì. Ecco, volevo dire una cosa, che Marco citerà anche dei film non di oggi ma del passato, e la cosa bella è che d'estate spesso questi film vengono recuperati, no? Un po' perché in televisione passano, un po' perché si ha voglia anche di rivedere o rivedere quello che si è perso durante il passato, e quindi può essere l'occasione giusta per recuperare dei capolavori. Assolutamente sì, le arene estive sia nei luoghi di vacanza che in città sono di solito pieni proprio di questi film passati, magari copie restaurate, quindi bisogna veramente stare con le foglie drizzate per vedere dove ci sono, e quindi qualcuno di questi può anche capitare, anzi uno che vedremo dopo so che è stato anche restaurato di recente. Allora io partirei con l'insalata con le caratteristiche di croccantezza e di amaro per antonomasia, che è la cicoria. La cicoria è, ultimamente si usa abbastanza poco, ma io ricordo quando ero piccolo che ogni tanto era una specie di olio di ricino, una cosa punitiva, quando c'era l'insalata di cicoria, ammazza, era una roba terribile, sembrava cosa ho combinato, che ho fatto di male, perché mi tocca questa cicoria, perché la cicoria è amarissima e c'ha... A me non viene un altro termine, non so se si possa dire in radio, anche per poi magari tanti ascoltatori saranno in spiaggia, questo termine fa pensare altre cose, ma è un po' pelosetta, c'è quella peluria lì che un po' infastidisce, un po' in qualche modo incuriosisce. Vabbè, queste due caratteristiche particolari della cicoria mi fanno pensare a uno dei capolavori di Dino Risi, che si intitola I Mostri, del 1963, è un film a episodi, ci sono un sacco di episodi, oggi non vanno più tanto di moda questi racconti a piccoli capitoli, come se fosse un romanzo. Sai che invece io tornerei al cinema a episodi, perché oggi con la velocità del corto di YouTube, io credo che sia in realtà un buon modo di fare un film, magari appunto con più registi, quindi anche spese diverse e la possibilità di raccontare delle storie in tempi molto brevi, però poi far durare il film appunto 2 ore, perché poi le storie di solito avevano un tema comune. Comunque vabbè, è una divagazione. È un mio pensiero su cui sono profondamente d'accordo, perché oltretutto tanti piccoli episodi, per dirla con la tavola, è come se fosse un lungo pranzo, quindi si cambia di continuo, si resetta proprio il proprio palato, ecco, di volta in volta, quindi certo. È una forma che recupererei, insomma. Ecco, questo sì. I Mostri oltretutto poi hanno comunque un loro filo conduttore, raccontato dal titolo, ovvero sia il racconto della mostruosità dell'umanità di quegli anni. Nulla è cambiato, c'è stato anche qualche anno fa I Nuovi Mostri, insomma cambiano le forme della mostritudine, ma direi che il campionario umano è sempre piuttosto ricco di personaggi ai limiti della non umanità. E quindi secondo me I Mostri, c'è ad esempio il primo, L'educazione sentimentale, con Ugo Tognazzi che educa tra virgolette il proprio figlio alle mostruosità della vita, quindi a fare tutto quello che non andrebbe fatto, che oltretutto è un racconto molto molto coraggioso, molto politicamente scorretto, che oggi forse non avremmo il coraggio di fare al cinema, che insomma fotografa tutta una serie di ipocrisie umane, facciamo finta di essere buoni anche con i nostri figli e di fatto sotto sotto mandiamo dei messaggi che non sono assolutamente positivi, e quindi la cicoria è questa. Poi c'è un altro tipo di insalata che spesso e volentieri fa da gregario, da spalla, da comprimario, per dirla anche un po' con il cinema, che è la rucola. Per la rucola ha anche lei una grande amarezza, ma soprattutto delle grandi note speziate, a volte ci penetra veramente nel naso, ci impedisce quasi una normale respirazione se ci facciamo un'insalata solo di rucola, per quello che viene utilizzata come accompagnamento. E secondo me la rucola mi fa pensare, insomma, a un altro grande capolavoro del 62 di Dino Risi, che è Il Sorpasso, questo road movie, per dirla in termini moderni, tra Gassman e Trintignant. Trintignant è un giovane ancora inesperto della vita, Gassman sembrerebbe sapere tutto della vita, e Gassman secondo me ha le caratteristiche della rucola, questa speziatura, perché lo vediamo dall'inizio estremamente disincantato, estremamente ironico, estremamente anche, insomma, controcorrente rispetto all'esistenza, come se nulla lo sfiorasse realmente, lo toccasse in profondità. Poi, insomma, invece nel finale vedremo che di fatto si tratta di una persona forse ancora più sola e ancora più problematica del giovane studente di Trintignant. Questo è un grande film che secondo me sa di rucola. Oh, ma chi c'è davanti a noi? Superare! Dunque, dopo la rucola ci sono altre insalate, c'è il songino, detto anche valeriana. Questo a me fa pensare, dunque il songino alla valeriana ha una maggiore componente dolce, infatti un'insalata dolce amara, viene anche utilizzato, come si sa, in ambito farmaceutico, questo elemento, questa componente dolce mi fa pensare a un film di Dino Risi apparentemente un po' più morbido, di fatto profondamente drammatico pure quello, con un finale amarissimo, che è Profumo di donna del 74. Abbiamo anche qui Vittorio Gassman, grandissima interpretazione, Agostina Belli, lui è un cieco, oltretutto è stato anche fatto un po' di anni fa il remake americano di questo film con Al Pacino. E questo è un altro film, un'altra commedia all'italiana, meno magari penetrante delle altre, ma insalatosa anche questa, secondo me. Poi abbiamo l'Indivia o la Scarola, che ha una grande anche lei amarezza, tutte le insalate appunto hanno questa componente amara, però a livello di consistenza c'ha una croccantezza, soprattutto tutte quelle sfrangiature che secondo me danno anche una connotazione, come dire, erotica, insomma un po' siamo in estate, quindi si può dire questo, piacevole, come se fossero quasi addirittura dei merletti di un abito intimo di una donna. E quindi non a caso questo tipo di insalata, che ha questo elemento appunto, questa consistenza particolare un po' spiazzante, a me fa pensare a uno dei film più importanti di Norisi, tra gli ultimi, La stanza del vescovo del 1977. Ah, lei che è di queste parti? Sai, io qui non ci vengo da prima della guerra. Conosce mica un posto dove si mangia bene? A casa mia. Ah, no. Lei viene a cena a casa mia, non no, si discute. No, no, grazie, volentieri, ma... La prego. Senta, la scongiuro. Anche perché con la storia di mangiare c'era sempre lui, ovviamente. Tognazzi non mancava mai. Sì, Tognazzi si sa che è stato un grande, sì, in effetti un grande mangiatore, più che un grande cuoco, anche se lui, insomma, si raccontano, c'è un libro e parlano delle sue ricette e di tutte i vari teatrini. C'erano anche delle competizioni gastronomiche tra lui e Gassman, insomma. Quindi sì, la tavola non era un qualche cosa di qualunque per lui, era un modo proprio per raccontare il personaggio, l'uomo oltre che l'attore. L'ultima insalata, Marco. Allora, io potrei anche dirne un'altra, che non è verde, però rientra sempre nella categoria delle insalate, è come se ci avesse un impermeabile un po' fetish, rosso, il radicchio è rosso, però fammelo dire, è proprio al volo, perché il radicchio io lo vedo comunque verde, non perché sia daltonico, ma c'ha l'amarezza e c'ha un'eleganza che non hanno le altre insalate, e sempre stando nell'ambito di Dino Risi mi fa pensare al Segno di Venere del 55, con una grandissima Franca Valeri, una Sofia Loren giovanissima. Questo è anche un film che ha un finale amarissimo, sembra in apparenza una commedia piacevole, una commedia sentimentale, ma Franca Valeri è una giovane donna che non riesce a trovare la sua dimensione di coppia sentimentale, e alla fine un'emarginata, e il finale ha un'inquadratura, questo è uno dei film che gira parecchio nelle arene estive, quindi gli ascoltatori possono porre l'attenzione su questa pellicola che vista sul grande schermo è fantastica, ed è un finale veramente duro duro e amaro. Grazie per le tue insalate di questa settimana, ci sentiamo poi settimana prossima sicuramente. Vi invito a visitare anche il sito di Marco Lombardi, che è cinegustologia.it. Domenica, ciao. Ciao. Il riposo del guerriero. Le suggestioni del gastronauta. E arrivano in questa domenica d'agosto anche le verdi suggestioni del gastronauta. Ciao Davide. Beh, verdi, tu lo sai che io sì, le insalate le amo ben poco, magari la verdura cotta, magari il radicchio mi piace molto, ma devo dire che nel periodo verde più che altro io penserei al risparmio in questo periodo. Sì. E credo che chi è in vacanza, i pochi che sono in vacanza secondo le statistiche, dovranno stare molto attenti come spendere bene i loro soldi, soprattutto al ristorante. E allora io do qualche indicazione, appunto le suggestioni. Guardate bene il menù prima di entrare, è un vostro diritto di leggerlo e di farvelo vedere. Vedete un po' i prezzi, magari basatevi su un piatto che conoscete, su un qualcosa che conoscete, ad esempio una pasta. Cioè quanto può costare una pasta? Una pasta, diciamo che si parte da 5 euro e si può arrivare a 12. Ecco. Sotto bisognerebbe stare un po' attenti al ristorante, perché il ristorante non è casa, deve calcolare i costi generali. Sopra 12, ecco, io direi appunto di lasciar perdere. Certo, c'è chi vuol mangiare il caviale o d'altro, però credo che questa non sia proprio la stagione di ricorrere al caviale al salmone. Ecco, una domanda, scusami, è vero che ci sono molti ristoranti, parlando di posti in generale, che ormai utilizzano piatti congelati? Sì, questo purtroppo è vero. Questo purtroppo è vero ed è difficile poterlo scoprire. Esatto, c'è tipo anche una pasta, capito? Una pasta con il sugo, Una pasta è più difficile, perché sicuramente la cottura fatta al microonde per farla rinvenire, forse qualcosa si può sentire. Ma anche saltata in padella, eh? Saltata in padella, quindi evitate di mangiare la pasta in saltata. Però mi veniva in mente una cosa, sui primi ho detto sì. Il minimo è 12. Io credo che c'è una persona che conosco che in Trentino ha pagato un primo 45 euro. Tu ne sai qualcosa? Ne so qualcosa, sì. Bene, ecco. Bene, sorvoliamo. La carta non l'ho guardata prima di entrare. Ecco, vedi, vedi. Questo vedi, è stato vedi, un errore. Vedi. Ecco. Senti, no, ma torniamo perché mi è venuto in mente al volo. Ma stavo pensando al discorso diciamo dei piatti da rinvenire. Sono tipici piatti da rinvenire che sono fatti su grande numero. Beh, io credo che se un ristorante arriva a quello, beh, lasciamo perdere allora. Cioè lasciamo perdere nel senso che non ha più la dignità di essere un ristorante, ma tantomeno un'osteria, perché l'osteria è un qualcosa di sinonimo di vivo, di pronto, e quindi sicuramente non ci pensa nemmeno. Ma ecco, trattorie, beh, insomma, sarebbe veramente da ritirargli la licenza. Uno così che non lo mette sul menù, perché un conto è se lo mette scriverlo, sul, ma sì, sicuramente certo. Non lo scrive. Quelli che fanno, diciamo, che offrono questi tipi di piatti sono i bar. Sono i bar che sicuramente non possono ovviamente cuocere, sì, ma possono solo riscaldare e lo possono fare. Ma vorrei dire che addirittura a me è capitato ultimamente, che queste sono le cose da ricordare molto, molto positive. Che in un ristorante che poi ho già citato, ma voglio ricitarlo visto che siamo in agosto, visto che Rapallo è un posto di mare, in una trattoria che non ha niente di lussuoso, che si chiama Rocco e i suoi fratelli, ebbene ogni piatto c'è scritto quanto tempo impiega per cuocerlo, per portarvelo. Ecco, questo non dico che è il cioè uno arriva a questo proprio per fare la truffa più assoluta, no, assolutamente, perché i piatti che ho mangiato erano straordinari. Ecco, bisognerebbe non arrivare a questo, ma sicuramente evitare di portare in tavola dei piatti il risotto rispetto. I suoi 20 minuti li vuole, esattamente, sarebbe una truffa. Sarebbe una truffa. Ecco, e invece i ristoranti che hanno dei menù con tante cose, cioè ecco, tipo, non so, 15 primi ce ne sono, ecco, anche lì è vero, si riesce in cucina a preparare 15 sughi diversi per, adesso dico sughi in generale. Dipende dal numero dei dipendenti in cucina, tipo, ecco. Perché se uno ha una cucina con 10 dipendenti in cucina può riuscire anche a fare questo, ma è evidente che chi si può permettere oggi 10 persone in cucina, quindi è difficile, e anche questo è una cosa da cui stare molto attenti. Tanti piatti, tanti primi, tanti secondi, tanti antipasti e tanti dolci, secondo me sicuramente sono un trillo, un campanello d'allarme. Abbiamo detto allora i primi fra i 5 e i 15 euro, Okay. Beh, sai, secondi è molto più difficile. Secondi è molto più difficile per un fatto che i secondi, qui c'è proprio la variabilità della materia prima. Un conto se ti do delle verdure magari elaborate, un conto se ti do della carne e un conto se ti do il pesce. Il pesce è molto caro, a meno che non sia il famoso pesce azzurro, il pesce che secondo me dovrebbe essere molto rivalutato, quindi il sugo, il suro, il sugarello, le acciughe. E poi dirò, attenzione, alle acciughe devono essere abbattute, tutto il pesce azzurro. E ecco, questi pesci costano molto meno, ma se cominciano ad arrivare orate, branzini, anche se sono di allevamento, di acquacoltura, secondo me costano. E beh, si può arrivare anche qui, si può partire da, se sono verdure, dagli 8, dai 7-8 euro, si può andare fino ai 20, ovviamente, tranquillamente, perché ad esempio un piatto di pesce crudo ben fatto con il tonno che costa molto caro e altri pesci che costano molto cari, che devono per forza essere freschi, perché altrimenti veramente non so come si possono far passare per sushi o piatto alla giapponese o piatto di pesce crudo, è difficile. Quindi i piatti di pesce costano sicuramente di più. Ecco, e gli antipasti che spesso hanno il costo dei secondi. Sì, ecco, questa è un'altra cosa che a me non va assolutamente bene, perché gli antipasti, ma sai, il problema, io credo che ci sia un trucco su questo. Sì. Un trucco che il ristoratore abbia capito che ormai il consumatore mangia due piatti e allora prende o un antipasto e un secondo, o un primo e un secondo, o un primo e un antipasto, e quindi vuol pareggiare. Un tempo l'antipasto era quello che costava meno. Sì, appunto, perché era l'introduzione alla cena o al pranzo. Oggi invece è diventato un vero e proprio piatto che molta gente per risparmiare lo prende. Pensava di risparmiare, spendi di più del secondo. Non risparmia più. Uguale, ecco. Non risparmia più. E la pizza? Quanto può costare? Difficile, perché le trovi da... Beh, sì. Guarda, le pizze costano normalmente, una pizza ben fatta, normale, alla napoletana, diciamo, quelle semplici, non quelle elaborate che oggi si trovano in molti, molti posti, dai 6 agli 8 euro, ma ce ne sono alcune che ci va dai 5 ai 7 euro, una pizza alla napoletana. E le altre, secondo me, lì dipende veramente da cosa ci metti dentro, ci sono anche qui delle esagerazioni. Ecco, allora, i tipi di mozzarella, allora, parleremo della bufala e dopo. Mai usare la bufala. Però è buona. La bufala è buona, però ci deve essere un gran pizzaiolo che sa come utilizzare la bufala. Perché sulla fa pizza. Molta acqua. Fa là, molto acqua, certo. Quindi la deve prima asciugare al forno. E non tutti lo fanno. Io credo che sia meglio una mozzarella vaccina. Secondo me rende molto di più. Senti, molti usano purtroppo quei pani, capito, di formaggio senza un nome che si affettano. Come fare a riconoscere che è quello e non è mozzarella? Bah, sai, quello si riconosce dalla consistenza. Perché la consistenza della mozzarella è molto diversa in bocca rispetto a questi formaggi che in bocca sono crema, quindi sicuramente sono molto, molto più cremosi. La mozzarella è spugnosa più che cremosa, quindi secondo me una certa differenza c'è, si può sentire. Ecco, allora, una pizza cioè fatta con i canoni giusti, quindi con una mozzarella che abbia un certo valore e non sia appunto quella pasta filata di cui tanto si parla. Il pomodoro, che deve essere il pomodoro, non quella spennellatina, quella hai capito? Le ecco, salse già pronte che vengono vendute nei bidoni. Nei bidoni, ora scusate il termine, bidoni intendo, cioè diciamo un contenitore molto grande. Le latte, molto ecco. Grande. E così quanto deve costare? Perché meno di quello vuol dire che gli ingredienti non sono giusti. Ma anche se usi te. la mozzarella diciamo di qualità, io credo che non si debbano superare i 9 euro. Ok, no, per avere, perché la pizza è una delle cose più mangiate d'estate, certo. E quindi bisogna anche capire quanto si possa spendere. Torniamo ai ristoranti, abbiamo ancora qualche minuto e abbiamo detto leggete il menù assolutamente prima di entrare. Devo dire che moltissimi posti di villeggiatura il menù è molto ben esposto all'esterno, quindi lo si legge con facilità. Sì, perché lo fanno per gli stranieri. Esatto, perché sono molto attenti. Sì, specialmente alcuni paesi sono molto attenti, i russi un po' meno, ma diciamo che i tedeschi sono molto attenti a questo. Forse perché io frequento posti, esatto, ricchi di tedeschi, in effetti sono molto ben esposti. Comunque, lasciami dire, sì. Cioè, io le fotografie le trovo indecenti. E le foto dei prodotti mai. Qualcuno anche sull'azzurro, come sappiamo, il cibo sull'azzurro perde ogni caratteristica ogni di bontà. Ogni voglia di mangiare. Esatto, l'ultimo consiglio che può darci il gastronauta per un'estate con l'occhio al portafoglio. Beh, attenti al conto, guardate se il coperto è molto caro, protestate perché il coperto è veramente una di quei balzelli, secondo me, che vengono messi, che non è giusto che il consumatore le paghi. Vabbè, le posate, il pane, il tovagliolo. Le posate e il pane, come si dice, sono cacchi loro, perché vanno a finire sui costi generali, devono essere calcolati sul costo di ogni piatto. Quindi tu abbatteresti, appunto, ne abbiamo già parlato altre volte, il coperto non dovrebbe pane esistere. Pane coperto non lo pago di certo, okay. Questo è il mio slogan. Se no portiamo noi la tovaglietta, le posate e portiamo anche il pane. Grazie al gastronauta, ci sentiamo domenica prossima. Ed è tutto per questa puntata del Riposo del Guerriero, puntata estiva, colorata di verde in questo caso, ma la prossima puntata, domenica ovviamente alle 10, sarà colorata di giallo, e il giallo per noi è il divertimento, insomma il sorriso che d'estate speriamo davvero ci sia per tutti. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, in regia Pietro Lacorte, ovviamente, e a voi, buona settimana da Stefano Gallarini.